che sensazione hai avuto da questa valanga di affetto che ti hanno riversato addosso i tuoi amici? Lo fa sempre piacere, soprattutto anche da gente che non conoscevo. Stimola il mio ego, che non è mai stato molto in superficie. Anzi, il disco lo tolgo, fatto il fatto che è una copertina bellissima, è più bella forse del primo, anzi sicuramente più bella del primo. E anche come disco penso che sia migliore, molto migliore del primo come realizzazione, adesso al di là della bravura dei singoli cantanti, sia del primo che di questo. Questo però mi sembra più denso di cose. Ecco, quindi mi ha fatto piacere, ieri ce lo siamo sentiti assieme a Mauro, che ringrazio e col quale mi congratulo ancora. Finalmente siamo riusciti a fare qualcosa, sì, qualcosa sì, mi ha fatto tutto lui, me non ho fatto niente, io me non ho fatto niente. Comunque ringrazio Mauro e ringrazio tutti i cantanti e le cantanti soprattutto che hanno interpretato le loro canzoni. E quindi basta, aspetto altre domande che vengono fatte anche a Mauro. Due parole di introduzione anche da parte di Mauro. È stata una gran fortuna, no? Perché tutto il progetto, sai, ti danno 24 grandi cantanti a disposizione, 24 pezzi meravigliosi, ti dicono arrangia, pago io, scusa, no, vorrei farlo ogni due mesi un lavoro così, no? Perché sai, Francesco ha fatto parte della storia, della crescita di ognuno di noi che hanno fatto questo mestiere in questo paese, e quindi avere la possibilità di rivisitare i pezzi, mettere a posto le cose, fare imbiancare, fare qualche chiusura, qualche tappatura eccetera eccetera, è stato facile. Guarda, lavorare con pezzi belli e con i cantanti bravi c'è poco di più facile, quindi devi solo stare attento a non rovinare, a non farti prendere troppo la mano, a lasciare che le cose vadano. Beh, a Mauro Pagani vorrei chiedere, nel primo disco c'era stato un po' insomma di baruffa fra gli artisti che volevano, tutti in tanti volevano interpretare L'Avvelenata. Vorrei sapere in questo secondo disco qual è stata la più gettonata, la più richiesta delle canzoni di Guccini. E a Guccini vorrei chiedere, riascoltando queste sue canzoni, se gli è venuto voglia di ricantarne una di queste, quale e perché? Io devo dire, questa volta non c'è stata una lotta particolare per fare un pezzo, però ci sono stati molti pezzi che facevano parte dell'infanzia e del periodo creativo di ognuno, per cui un sacco di cantanti, il Zucchero è arrivato e ha detto voglio fare quella lì, Levante ha detto voglio fare quella lì, ognuno è arrivato, per cui sai, conoscevano i pezzi, li avevano cantati da anni, entrati a far parte della loro quotidianità, no? E quindi sai, mi ripeto, ma è così, quando è così puoi solo che divertirti. Ieri, ascoltando il disco realizzato, cantichiamo, ogni canzone la cantichiamo, e ogni tanto a volte mi sono anche un po' commosso, ma non per la canzone in sé, perché queste canzoni non sono nate per caso, sono nate in motivi particolari della mia vita. Io non sono uno che gira col taccuino prendendo spunti di qua e di là, cioè le canzoni nascono da momenti della mia vita, da momenti miei della mia vita passata, e quindi questo mi ricordava quei momenti, e per questo mi sono anche un po' commosso. E come tutti gli anziani, ho compiuto 80 anni lo scorso giugno, forse sono un po' rincoglionito, è diventato un po' più sentimentale del normale, ecco, questa è la verità. E non ce n'è una in particolare che ti è venuto voglia di ricantare? No, voglia di ricantarle no, perché poi non canto più, non ho cantato questi due pezzi. Il primo musicato da Mauro, bellissimo, il secondo musicato da Flacco, ma mi hanno costretto a cantare, quasi non volevo cantare perché non ho più voce, mi va via la voce verso le 11 della mattina, sparisce la voce, quindi non avrei più la forza di cantare, ecco. Quindi cantiamo le 8, dai. no, cantare non mi viene voglia di cantare, no. E cantiamo così, ricordando come le cantavo. Volevo sapere, mi ha incuriosito molto il saluto di Gianna Nannini nel video dove le dice che lei è ancora il futuro. Volevo sapere se lei si riconosce in questo saluto, insomma, se in questo augurio, se lei si sente ancora il futuro, e se il suo cantautorato pensa che possa essere ancora il cantautorato del futuro. Come autore di canzoni no, assolutamente. Non scrivo più canzoni dal 2011, se non sbaglio, l'ultimo disco che ho fatto, e non ho più scritto canzoni. Praticamente c'è l'ultima, quello sui Giganti, ho scritto soltanto il testo, ma perché sollecitato. Invece sono diventato uno scrittore, forse anzi probabilmente ho un futuro, perché uscirà presto, è uscito recentemente il mio ultimo romanzo, uscirà presto un nuovo racconto e quindi scrivo, ma non cartoni, cartoni niente, sono mai nel passato dimenticato. In quell'angolo lì ci sono due chitarre che non apro più dal 2011 di custodia e quindi sono, non sono impollerate perché sono dentro, però moralmente lo sono. Volevo chiedere, mi sembra di aver visto che la locomotiva è rimasta fuori dai due volumi, volevo chiedere come mai e poi volevo capire da due grandi autori di canzoni come voi, come vi sembra che sia cambiata la scrittura delle canzoni, com'è la scrittura oggi, perché guardare, ascoltare le canzoni di Guccini è come essere davanti a un film, si vedono personaggi, immagini, storie, oggi forse questo manca un po', volevo sapere secondo voi com'è cambiata la scrittura. Allora, ci sono alcuni pezzi che è un po' difficile fare, perché sono pezzi che si portano dietro così tanto la personalità di chi li canta, che a volte si prova un po' di occupazione a affrontare un pezzo. E poi tra l'altro la locomotiva è secondo me parte di un modo di scrivere le canzoni che forse è un po' meno attuale, nel senso che sono canzoni lunghe, ripetitive, ci vuole una capacità anche da parte del pubblico di sedersi e ascoltare. Non ti so dire molto perché io non ascolto quasi più master, non ascolto più musica, non ascolto più niente, da quando ho smesso ho proprio fatto una specie di taglio, ho detto, ascoltavo molta roba, ma non ascolto più niente, quindi non so dire quale sia il panorama attuale della musica, non te lo so dire. Però l'unica cosa che si potrebbe dire comunque è che non è vero che la canzone d'autore ha smesso di nascere, casomai siamo in un periodo storico in cui la canzone d'autore ha smesso un po' di essere distribuita, questo di essere sì, scelta da chi si occupa di media, eccetera, eccetera, appaiono un po' meno interessanti, però non è colpa della canzone d'autore, è solo un periodo storico così, però guardate che in giro c'è un sacco di gente che scrive un sacco di pezzi, bisognerebbe che chi sceglie i pezzi da trasmettere ascoltasse un po' di più, guardasse un po' meno le classifiche. Ha detto che alcuni degli interpreti già li conosceva, sono amici da tempo, altri invece non li conosceva. Di questi nuovi, chi l'ha colpito particolarmente e perché? È meglio che non fare classifiche, potrebbe essere pericoloso. Alcuni mi sono piaciuti di più, altri mi sono piaciuti di meno, ma devo dire che mi sono piaciuti tutti allo stesso modo, per tranquillità, per amore di pace. No, non si possono fare classifiche, sono stati tutti molto bravi. Altri che conoscevo, sapevo che erano molto bravi già prima di sentire la canzone da loro interpretata, ma non ce n'è uno in particolare che mi ha sbalordito. Li conoscevo quasi tutti molto, molto bene, abbastanza bene, e quindi non è che possa fare delle classifiche. Il digitale sicuramente ha cambiato profondamente il modo con cui noi fruiamo la musica, a partire proprio dalle piattaforme streaming come Spotify, e questo ha cambiato anche il modo con cui si compongono oggi le canzoni, no? Che devono essere quasi tutte in quel range famoso del 2 minuti, massimo 2 minuti e 50. Volevo sapere che cosa ne pensa di questo cambiamento, come lo vive magari anche proprio da fruitore, qual è, diciamo, la sua opinione rispetto a questo mutamento. Vabbè, mutamento, adesso il mutamento attuale non so niente, digitale, io sono nato nella prima metà del secolo scorso e quindi risalgo quasi all'età della pietra, diciamo, sono davanti a un computer che opero per scrivere, che ma più o meno lo so accendere, ma molto di più non lo so, quindi digitale per me è una cosa misteriosa e ha un certo fascino che poteva avere per un primitivo vedere l'uso del fuoco della ruota, grosso modo. Anche ai miei tempi però c'era un limite, le canzoni devono durare 3 minuti perché 45 giri durava 3 minuti e difatti misero una canzone che a me non è mai piaciuta dopo, perché parlo dell'Avvelenata, che con mia grande sorpresa nell'altro disco volevano fare tutti. L'hanno messa in un jukebox, io ho fatto più togliere subito appena, la Emmy la fece mettere in un jukebox e dato che durava più di 3 minuti, non, a un certo punto si staccava e non finiva, perché durava più di 3 minuti e le canzoni dovevano avere questo periodo di tempo. Ora io dico che una canzone non può avere un breve periodo di tempo, la canzone deve dire quello che vuole dire. E quindi può anche durare come la locomotiva, che sono 13 strofe per dire. E quindi quando uno deve raccontare una storia, il tempo è come quando scrivo un romanzo, non è mezza pagina o una pagina e mezzo, dipende dall'argomento che è il tratto, dipende da quello che voglio dire. E quindi non ci deve essere un limite di tempo dato dal mercato, dalla cosa, la canzone. La canzone deve essere libera, deve andare nel tempo che è necessario per raccontare una storia.